finalmente a Bologna, da non perdere, rientrando in diretta negli studi di Via Zanardi, come ogni giovedì si va in mostra, quindi dopo il GR di Radio Popolare nuovamente la linea al Breakfast Club, che presenta tre esposizioni all'interno del lungo 800. Partiamo con lo sviluppo del talento, parliamo della Fondazione Collegio Artistico Venturoli in via 100-304 a Bologna, che durante la conferenza stampa di presentazione ho avuto onore e fortuna di visitare. È una sede espositiva da micro sensazione continua, da bellezza, da storicità, da impegno e di continuità, di ricerca nell'arte, e con un percorso che vede la nostra città protagonista per lo sviluppo esatto di artisti che ancora juniores sono stati presi da un mecenate, appunto il cavaliere, l'architetto per meglio dire, Venturoli, che è riuscito a dare poi concretezza all'ispirazione e al talento di questi allora giovani artisti, poi diventati ovviamente delle conferme. Ne cito alcuni: Luigi Busi, Raffaele Faccioli, Giuseppe Romagnoli, Giovanni Masotti, Luigi Serra. Durante il loro periodo di residenza presso il Collegio Venturoli, il percorso e il loro sviluppo, cito un termine cestistico, da juniores fino alla prima squadra, così per dire, no? Arrivati definitivamente nel roster dei grandi artisti di panorama internazionale, come hanno iniziato in una sezione, ed è veramente suggestivo vedere il talento delle loro prime opere appena arrivati al collegio e nella loro crescita, dopodiché in maniera definitiva con quelli che sono dei capolavori che in seconda sezione o prima sezione, vedete un po' come iniziare la visita. Io inizierei dagli albori e poi notare come i percorsi si siano appunto cresciuti all'interno del Collegio Venturoli. Il Collegio Venturoli nasce nel dicembre del 1825 grazie, come ho detto, all'ascito dell'architetto Angelo Venturoli e la sua ricerca di giovani talentuosi bolognesi che non avevano la possibilità di studiare. La mostra comprende 150 tra disegni dipinti, si divide in due sezioni, la prima allestita nella sala affrescata del collegio. Il collegio è una sede espositiva meravigliosa, include disegni e le iniziali esercitazioni di pittura dei giovani artisti, con indicata l'età di esecuzione. Uno dice: no, non è possibile che questo a 14 anni abbia fatto questo capolavoro. La seconda, all'interno della nuova galleria espositiva, riunisce le opere da prima squadra della maturità donate al Collegio Venturoli dagli stessi artisti in segno di gratitudine. È una tradizione che prosegue fino ai giorni nostri. Noi abbiamo raggiunto il presidente della Fondazione Collegio Artistico Venturoli, Dante Mazza, e con lui appunto abbiamo approfondimento di presentazione di questa mostra, lo sviluppo del talento all'interno del lungo 800 a Bologna. Procede il nostro percorso con Radio Città Fujiko nel lungo 800, ora una sede espositiva che definirla sede espositiva è molto limitante, infatti ne faremo un approfondimento con chi è in questo momento vicino a me. Sono con professor Dante Mazza, presidente del collegio, della fondazione, da 30 anni. Iniziamo allora parlando della fondazione. La fondazione per 2 anni compirà i 2 secoli di storia. Venne fondata appunto dall'architetto Angelo Venturoli, architetto neoclassico. La fondazione inizia a lavorare nel 1826, accogliendo giovani artisti di 12 anni che ricevevano insegnamenti specifici d'arte e se ne uscivano a 20 anni con una grande preparazione. Erano quasi semi-analfabeti, ma ne uscivano con una grande cultura. Pensate che studiavano l'inglese, il latino, no, aspetta, credo il francese e il tedesco, non l'inglese, il francese e il tedesco e latino e greco, proprio incredibile. Poi c'era l'aula di scienza naturale, esperimenti dell'elettricità e quant'altro, insomma. Quindi, e poi avevano insegnamenti dai bravi pittori dell'epoca, alcuni erano insegnanti dell'Accademia e altri invece erano artisti liberi, cioè tipo il Guardassoni, tipo tanti altri, insomma. E questo è un percorso che si addentra chiaramente nella estensione del lungo 800. In che modo è inserita questa sede? Dunque, questa mostra nasce da un'idea che mi è venuta pensando proprio alla peculiarità dell'istituto che ha sviluppato degli artisti, questi bimbi a 12 anni che disegnavano eccetera. Allora perché non chiamarlo lo sviluppo del talento? Ha capito? E allora abbiamo la mostra che divide in due sezioni. In una sezione dove siamo noi adesso abbiamo le opere della maturità, quindi verso i 20 anni e anche dopo, perché donavano gli artisti eccetera, mentre nell'altra sezione abbiamo i disegni di questi ragazzini dai 12, 13, 14, 15 anni ed è bellissimo vedere, stupefacente vedere quanto fossero bravi, ma lavoravano sempre, ma non sempre lavoravano, andavano anche a girare, erano anche allegri, però non avevano le distrazioni che abbiamo noi adesso. Certo, e tra l'altro deve essere interessante, anzi lo è, vedere, riconoscerne uno stile alle prime armi e poi trovarlo sviluppato. E infatti noi vedremo proprio nell'altra sala questi ragazzini che iniziano piano piano, ma già verso i 13-14 anni sono stupefacenti, fanno delle cose formidabili. Ma del resto questi ragazzini fuori nomi di qualcuno? Diciamo fra i precursori c'è Busi, poi c'è Serra, e poi c'è Pacioli, sono i tre pilastri che si formano, quasi coetanei, che si formano alla metà 800, diciamo, che poi sono gli esponenti del verismo bolognese, eccetera, eccetera, che ha varie declinazioni, c'è il verismo drammatico di Busi, il verismo invece più intimistico di Pacioli, o anche di Serra per certi versi. E questo appunto è un bel viaggio, non solo nel tempo ma anche nella crescita artistica, nome quanto mai azzeccato. Io la ringrazio tantissimo e le auguro buona giornata. Grazie, molto gentile, e auguri ai suoi ascoltatori. Grande Cecil Taylor, Sell Walk for Celeste, disco della Candid che ho messo come colonna sonora per avere una visione di crescita e di sviluppo all'interno di una struttura che porterà poi al contemporaneo e nel modern jazz. E troviamo, oltre che il maestro che ho voluto abbinare ad Angelo Venturoli, Cecil Taylor, musicisti del calibro di Roswell Budd al trombone, Steve Lacy al sax soprano, Archie Shipp al sax tenore e in conclusione la batteria per la ritmica Billy Higgins, un disco meraviglioso per Candid Records. fino al 15 giugno già aperto, ovviamente per la precisione dal 22 marzo, il 15 giugno 2024 la conclusione merita una visita già di per sé, la sede espositiva che è stupenda, dopodiché le due sezioni in cui trovate, non so, Giovanni Masotti, che è stato definito nella parte iniziale della sua carriera, almeno così ironicamente l'ho definito, il masottino, perché è giovanissimo, ha 13-14 anni, delle opere, dei capolavori già di per sé che è impossibile, cioè, ma... Dopodiché nella sede successiva invece i lavori della maturità in un verismo bolognese, in un'ispirazione che arriva dal classico, allo stesso tempo dal mito, dall'arrivo al sacro, insomma il racconto di percorso di questi artisti che indubbiamente all'interno del lungo 800, ed è veramente un peccato che sia stato sottovalutato questo secolo all'interno della struttura artistica della nostra città, fortunatamente e finalmente a Bologna la possibilità di questa esplorazione. Abbiamo iniziato dal Collegio Venturoli, procederemo dopo la pubblicità, ancora un po' di musica e poi si rientra e andremo a Palazzo Fava. A tra poco, buon ascolto per voi, Cecil Taylor.